Domenica 25 novembre, la Zanzara corre per le vie di Firenze. Radio 24 è radio ufficiale della Firenze Marathon, i 42 chilometri più affascinanti del mondo. Ai microfoni di Radio 24 si alterneranno commenti e interviste all'interno dei GR e collegamenti in A Tempo di Sport con Giuseppe Cruciani, che racconterà la sua maratona in diretta. Per preparare i partecipanti, mercoledì 21 novembre puntata speciale di Essere e Benessere con i consigli per i maratoneti. Radio 24 e la Firenze Marathon 2012, in corsa con gli ascoltatori.